Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo ancora dell'accordo raggiunto a livello europeo sul Recovery Fund, e perché oggi vi è stata una doppia serie di interventi del Presidente del Consiglio in aula al Senato, ha avuto infatti le comunicazioni al Senato, dicevo, ed è tornato sul tema definendo l'accordo dell'Unione Europea un accordo che ha permesso a Bruxelles di mutare prospettiva e riconsiderare in modo repentino le prospettive di sviluppo. L'intesa è l'unico accordo per la tutela della stabilità dell'euro, ha continuato Conte, e l'impegno politico anche del governo italiano che ha permesso di confermare i 750 miliardi. Torneremo a analizzare nel dettaglio l'accordo, che comunque adesso vedo che c'è una polemica tra il fatto che le condizioni per ottenere le risorse sono per alcuni anche più stringenti di quelle del MES. Allora, anche qui a mio avviso è inutile spaccare il capello in due, cioè ricordiamoci da dove si partiva, da che Europa era quella, non solo quella del 2012 ma già anche quella di qualche mese fa pre-Covid. L'obiettivo politico è stato raggiunto per la prima volta, nonostante l'opposizione dei paesi frugali, c'è un debito comune dell'Unione Europea, i 750 miliardi che complessivamente vale questo piano andranno raccolti dalla Commissione Europea attraverso emissioni. Ecco perché serve un bilancio europeo che è rimasto invariato a 1.074 miliardi. Ma dicevo, c'è una condivisione del debito, c'è un trasferimento, nel senso che alcuni paesi riceveranno, penso per esempio all'Italia e alla Spagna, pro capite una certa cifra. Ogni residente italiano riceverà netti, non in busta paga sua chiaramente, ma come ammontare 500 euro. L'Olanda invece verserà ogni residente olandese 930 euro, e così i tedeschi verseranno 840 euro, mentre gli spagnoli riceveranno più di 900 euro, ogni greco riceverà 1600 euro e ogni francese ne verserà netti 400. Faccio notare che la Francia in realtà ha accettato questo piano per volere di Macron, pur essendo un paese che avrà un crollo del PIL molto simile a quello italiano, previsto al 10%, ha avuto un danno, diciamo, sociale dal Covid, oltre 30.000 morti, eppure ha accettato di versare e non di ricevere, a patto di salvare, diciamo, l'Unione Europea, in questo caso anche l'euro. Lo dico perché poi uno può pensarla come vuole, ci mancherebbe, però bisogna anche avere un minimo di onestà intellettuale, di realismo e di confronto storico. Se uno sperava di ricevere soldi gratis, senza vincoli, a parte che sarebbe stato sbagliato, e conoscendo come nel passato abbiamo speso male o non speso i soldi che avevamo a disposizione, io sono fortemente, personalmente convinto che serva una verifica, perché non voglio che poi i soldi vengano utilizzati per consenso elettorale, non per lo sviluppo del paese. Però, diciamola tutta, un accordo del genere era impensabile 6 mesi fa, ed era impensabile anche 6 settimane fa. C'è stato un grossissimo impegno di Angela Merkel, che noi in questi anni abbiamo criticato, proprio per la gestione della Grecia nel 2012. E non dico la lezione, ma è un'altra Angela Merkel quella che si è mossa come un panzer in questo caso, e ha, con la forza specifica della Germania, obbligato i paesi cosiddetti frugali o fregali a fare come fanno, come dicono in francese, avanzare rinculando, cioè dire che anche loro hanno ottenuto una quota un po' più alta di prestiti, non di sovvenzioni, hanno ottenuto sicuramente una riduzione, o meglio i cosiddetti rebates, cioè, alcuni paesi hanno degli sconti rispetto a quello che dovrebbero versare al bilancio europeo. La Danimarca ha ottenuto 322 milioni di rimborsi rispetto a 222 della proposta, quindi 100 milioni in più. L'Olanda ha ricevuto 1 miliardo e 920 milioni di rimborsi contro 1 miliardo e 600 milioni della proposta, quindi 300 milioni in più. L'Austria ha ottenuto sconti per 565 milioni contro i 287. La Svezia sconti per 1 miliardo e 100 milioni contro gli 823 milioni previsti. Invariati invece i saldi della Germania, 3 miliardi e 670 milioni. Quindi attenzione, la Germania non solo versa, ma non ottiene neanche uno sconto su quello che deve versare. La Francia darà un versamento netto, pur avendo una situazione economica pesante, tanto quanto l'Italia e la Spagna. Quindi io non capisco dal punto di vista politico di che cosa ci si possa lamentare. Poi voglio dire, se qua l'arte è di Chiagni e Fotti, avete sbagliato il programma. Ma non poteva, viste le condizioni iniziali, andare meglio. Poi se a qualcuno dà fastidio che l'accordo lo abbia ottenuto Conte, questo è un problema suo. Io uso la massima di Mao: non importa il colore del gatto, basta che prenda il topo, che sia... E quindi l'importante era ottenere e portare a casa il recovery fund con le garanzie. Poi vedremo i meccanismi di funzionamento. La parte di sussidi, cioè di non di prestiti, fermo restando che anche i prestiti sono a scadenza lunghissima, perché verranno ridati dal 2027 in poi, però il rimborso inizierà nel 2027. Ma dicevo, la parte italiana, qui bisogna capirsi, i sussidi sono 81,4 miliardi. L'Italia è il paese che in percentuale ottiene la quota più forte, il 28% degli aiuti tra sussidi e prestiti vanno all'Italia, il 12% del reddito nazionale di quest'anno praticamente. Tra l'altro una cifra più alta rispetto a quanto avevamo visto all'inizio, si parlava di 172 miliardi, questo però perché è salita la quota di prestiti, non la quota, diciamo, di sussidi. Bene, però, e siamo i primi beneficiari come ammontare, non in proporzione alla popolazione. Va detto che i sussidi sono 81 miliardi e mezzo, quindi prestiti a fondo perduto, però siccome ne dovremo versare nei prossimi 7 anni tra 45 e 55 miliardi nel bilancio dell'Unione Europea, al netto di questi versamenti il beneficio è tra i 36 e i 26 miliardi di euro. Qui poi si apre la polemica sul MES, c'è chi dice, beh, visto che abbiamo questi soldi non c'è più bisogno del MES. Io spero che uno abbia fatto i conti bene e non ho motivo per dubitarne. Altri dicono, attenzione, no, proprio perché anche questi soldi hanno una loro condizionalità, perché i piani devono essere approvati non dal Consiglio europeo, che comunque daranno indirizzo non a maggioranza assoluta ma a maggioranza relativa, e poi lo spiegheremo, devono essere comunque passare al vaglio della Commissione europea. E dall'altra parte, dicevo, c'è chi dice, visto che anche questi soldi hanno le condizionalità, in alcuni casi anche più stringenti, a mio avviso, rispetto a quelle del MES, perché mentre il Covid-MES ti chiede solo di usarle per spese sanitarie dirette o indirette, e poi arriveremo alla polemica sui banchi delle scuole che rientrerebbero nei soldi del MES, qui ti viene chiesto un impegno anche a fare riforme sulle pensioni fiscali e quant'altro. E dicevo, c'è chi dice, guardate che il MES a questo punto ha meno condizionalità dei soldi del Recovery Fund, quindi diventa solo un confronto ideologico, perché non piace la parola MES. A chi mi dice, vai con la propaganda per il governo, va bene, guardi, ma lei mi dica l'alternativa, chi avrebbe mandato a trattare a Bruxelles, che cosa avremmo ottenuto? Perché siamo tutti capitani della nazionale a casa, magari alla tastiera, in smart working. Altra cosa è poi ricordarsi da dove si era partiti, che muro. Guardate una cosa, visto i geni che mi stanno scrivendo sul fatto che noi abbiamo calato le braghe, andate a vedere, visto che avete tempo, le reazioni non della stampa ma anche dei social olandesi a Rutte. Rutte, da quello che ci risulta, è stato pesantemente insultato, perché l'accusa è soprattutto da parte di Wilders, quindi il duro e puro sovranista, è stato di aver ceduto, di aver avuto le ginocchia molli nei confronti di Italia e Spagna. Ora, delle due l'una, o ha ragione chi dice che le braghe le abbiamo calate noi, o ha ragione gli olandesi che dicono, guarda che Rutte alla fine ha dovuto cedere e le braghe le ha calate Rutte. Cos'è stato? Cioè, non è che le braghe le hanno calate tutti qua, non era un incontro di nudisti, lo dico a chi mi sta scrivendo, era un Consiglio europeo. Non necessariamente uno ha vinto e l'altro ha perso, si può anche pareggiare come avviene nel calcio, però da lì a dire che abbiamo perso noi mi sembra veramente fanta narrazione. E poi ragioneremo invece delle tempistiche e della task force che il governo deve mettere in piedi, perché entro ottobre bisogna presentare, quello sì, seriamente, un piano di utilizzo di questi soldi. Parleremo in apertura invece dei dati oggi sulle piccole e medie imprese italiane e il rapporto CERVED, con un allarme fortissimo nel frattempo sulle piccole e medie imprese che rischiano in molti casi di non reggere l'urto del Covid e quindi l'effetto economico del Covid. È il rapporto regionale delle piccole e medie imprese italiane realizzato da Confindustria e CERVED, che prende in considerazione 156.000 società italiane che hanno tra i 10 e i 249 dipendenti. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Allora, nessuno qui ha la verità infusa, io sto citando gli accordi del Recovery Fund e dando chiaramente una valutazione, se no mandavo in onda una scheda, che poi avremo. Detto questo, attenzione, lo dico, poi ognuno la pensi come vuole, era inimmaginabile ricevere dei soldi, a maggior ragione la quota a fondo perduto, senza che qualcuno vi mettesse delle condizionalità. Ma voglio dire, quando andate in banca, non è che la banca vi dica ti do un prestito, qui in questo caso era anche a fondo perduto, e non mi interessa come lo spendi. Dall'altro faccio notare che anche gli imprenditori, la maggior parte che le ha fatto domanda l'ha ricevuto, non abbiamo mai avuto lamentele, che ha ricevuto i soldi a fondo perduto dello Stato, quelli sul fatturato di aprile, ha dovuto dimostrare un calo del fatturato di almeno il 33%, cioè non era pensabile che non vi fossero condizionalità, ma del resto già i fondi europei che utilizziamo in alcuni casi male hanno delle condizionalità. Ma chi è che ti dà i soldi senza una condizionalità? Io non so in che mondo uno... Ma questi che mi scrivono, vengo a casa vostra e vi chiedo 100.000 euro, mi chiedi come li spendi? Non ti preoccupare, sono fatti miei. Facciamo così, questo in un altro mondo. Andiamo con le notizie in breve. Qualcuno mi dice, ma perché l'Europa non ci presta sull'evasione fiscale? C'è anche quello, c'è anche la richiesta, e poi c'è quello che l'Italia può mostrare di aver già fatto, penso alla pressione fiscale con la riduzione del cuneo fiscale, penso al maggior controllo sull'evasione con la fatturazione elettronica. È chiaro che non basta quello, ma dovrai dire noi ci siamo già mossi in una certa direzione, cuneo fiscale, fatturazione elettronica, e andremo avanti in quella direzione. Però adesso andiamo con ordine. Se i fondi hanno condizionalità non si possono spendere in modo elettorale. Ecco, questo è il grosso vantaggio, tra l'altro, della condizionalità. Io non mi fido, ma non che non mi fidi di questo governo, io non mi fido, diciamo, perché conosco questo paese, di fondi dati senza condizionalalità, perché ho paura che poi sotto elezioni, qua le elezioni sono sempre dietro l'angolo, uno possa essere tentato di utilizzarli non in maniera produttiva, ma magari in maniera solo elettorale. E da lì, abbiamo già detto nelle settimane passate, in questo caso per esempio ridurre l'IRPEF o anche l'IVA servirebbe a ben poco in un paese che ha poca fiducia, cioè ha un altissimo tasso di incertezza. Abbiamo visto aumentare i depositi bancari di oltre l'8% in questi mesi, finisce che questi soldi li tieni in banca. Io andrei subito a spenderli in infrastrutture, in investimenti infrastrutturali, dalla scuola alla sanità, ai cantieri già aperti e quant'altro, perché almeno lì la ricaduta sull'economia e sul PIL ce l'ha in maniera immediata. Allora, avete ragione, la frase di Deng Xiaoping, non di Mao. Chiedo veni, andiamo con le altre notizie in breve. Partiamo dai mercati, la cui reazione ieri è stata incontrovertibile. Oggi realizzi meno 0,60% a Milano e a Francoforte, meno 1,30% a Parigi, Londra meno 1% e il Dow Jones più 0,24. Tra i titoli segnalo Buzzi Unicem più 3,1, A2A più 2,5, Fineco più 1,70, Exor più 1,5, Mediobanca più 1,20, l'1% rialzo di Hera e di Prismian, Pirelli invece meno 2,70 come Moncler ed Eni e Tenaris, il 2% lo perde di Assolin, l'1,60 Campari, l'1,5 il calo di Enel e di Atlantia. L'oro è volato ai massimi degli ultimi 9 anni, a $1,854 l'oncia, è il livello più alto dal settembre del 2011. Faccio notare che da metà marzo le quotazioni dell'oro sono salite del 26%. Il petrolio invece è stabile a $41, anzi un po' in calo oggi rispetto a ieri. Per quello che riguarda i dati sulla pandemia, l'OMS definisce preoccupanti alcune situazioni in Europa del Sud e nei Balcani. In Europa del Sud immagino si riferisca alla situazione problematica che c'è in questo momento in Catalogna, soprattutto per quello che riguarda la Spagna. Le Americhe sono ancora il principale punto caldo, ma la malattia inizia ad accelerare in Africa. Poi per quello che riguarda invece, visto che parlavamo di America e di Stati Uniti, nelle ultime 24 ore ci sono state più di 1000 morti, ahimè, negli Stati Uniti. È la prima volta dal 9 giugno che si supera questo livello, cioè 1000 morti in 24 ore. È una cifra comunque inferiore al picco registrato il 15 aprile di 2752 morti in 24 ore. Il debito italiano nel primo trimestre è salito al 137% del 6 del PIL, dal 134% del quarto trimestre 2019, quindi 3 punti percentuali in più di debito rispetto al PIL. Lo spread resta fermo in Italia a 153 punti. E poi il rapporto che oggi viene diffuso dall'Istat sull'istruzione, dove noi restiamo tra gli ultimi come livello di istruzione. Il 62% delle persone tra i 25 e i 64 anni in Italia ha il diploma, contro il 78% dell'Unione Europea. In Germania sono l'86%, in Francia l'80%, l'81% del Regno Unito. Solo Spagna, Malta e Portogallo hanno valori inferiori all'Italia, e noi abbiamo avuto l'anno scorso un primato nei NEET, i giovani che non lavorano e non studiano. Si tratta di 2 milioni di giovani. In realtà è calato di 1,2 punti percentuali rispetto al 2018, ma siamo ancora il record a livello europeo. Il mercato della casa, per quello che riguarda i dati diffusi oggi dall'Osservatorio sul mercato immobiliare di Nomisma, si fermeranno al di sotto le compravendite al di sotto delle 500.000 unità nel 2020, contro le 603.000 del 2019, un calo del 18%, ma è previsto poi un recupero. Parliamo delle compravendite, non dei prezzi, però sappiamo che un calo delle compravendite di solito non è una buona notizia per chi deve vendere, di solito lo è per chi deve comprare, perché porta con sé anche un leggero calo dei prezzi. E torniamo anche al fisco, perché con le polemiche abbiamo avuto ospite il presidente dei commercialisti italiani, la minaccia di sciopero fiscale per le scadenze non rinviate. Oggi il vice ministro dell'economia Laura Castelli ha detto che il ministero dell'economia e l'agenzia delle entrate stanno lavorando da qualche mese si è pronti a dire addio all'attuale sistema di acconti e saldi per sostituirlo. Devo dire che c'è una dichiarazione anche del direttore generale dell'Agenzia delle Entrate oggi, quindi per 4 milioni di contribuenti tra autonomi, professionisti e partite IVA, il progetto prevede il passaggio ad un sistema di pagamento basato sugli incassi e le spese effettive, un metodo di cassa, e quindi non più accantonare la somma per l'imposta dell'anno successivo, che ancora non si sa come andrà. Io spero di vederlo, perché vedete, problema che abbiamo avuto adesso nella polemica con i commercialisti è che da un lato è vero, lo Stato ha ragione nel dire scusami ma tu mi devi saldare la parte mancante del 2019, e sapevi di dover pagare quelle tasse perché il fatturato del 2019 l'hai già portato a casa. Il problema poi però è che se tu non hai fatturato improvvisamente marzo, aprile, maggio, può essere che tu abbia usato quei soldi, quella liquidità per andare avanti in quei 3 mesi. E allora adesso ti ritrovi a dover dare non solo quello che già dovevi dare relativo al 2019, devi dare anche l'acconto sul 2020. Allora, comunque diventa complicato, perché quando poi hai un anno completamente disruptive, cioè imprevisto, il cigno nero come questo, non puoi fare un ragionamento come in un anno normale in cui tu sì, hai tenuto da parte dei soldi che sai che avresti dovuto versare più avanti, poi fai, c'è un acconto sul 2020 che poi ti verrà scalato e vai avanti con questo gioco di saldo e acconto. Se poi arriva una cosa improvvisa che non ti permette per 3 mesi di fatturare, magari anche nei mesi successivi di fatturare molto poco, questo meccanismo va in panne, chiaramente, non per colpa necessariamente del contribuente, ma perché ha avuto una situazione emergenziale straordinaria, ha dovuto utilizzare soldi del conto corrente, magari, per provvedere a spese correnti in mesi in cui era chiuso, in cui era aperto, ma fatturava pochissimo. I bonus vacanze sono 720.000 quelli già richiesti, per un controvalore di 326 milioni di euro, di cui utilizzati 70.000, lo ha detto la ministra Paola Pisano. C'è una polemica sul fatto che il 30%, se ben visto, dei 3 stelle non accetterebbe il bonus vacanze. Non voglio tornare su questo punto, secondo me il meccanismo è assolutamente astruso, l'80% e poi il 20%, a mio avviso bastava portare le stesse somme in detrazione per un ammontare appunto equivalente in detrazione fiscale, e uno sapeva che almeno quei soldi gli sarebbero valsi una detrazione fiscale, cioè era un pochino più facile, però ormai l'hanno fatto così. Allora, ministro Azzolina, guardate, visto che ricevo ancora molti commenti politici, ma ne parliamo nella seconda ora del Recovery Fund. Io penso che sicuramente il governo abbia portato a casa un risultato importante, e essendo italiano, ripeto, non mi interessa il colore del governo. Però ritengo altresì che se la ripartenza della scuola non verrà gestita bene, da un punto di vista politico, tutto il risultato portato a casa con la trattativa europea potresti disperderlo, bruciarlo attraverso una gestione dissennata della riapertura scolastica, perché è vero che gli studenti non votano, ma i genitori sì. E lo dico in maniera molto chiara al governo, immaginando che qualcuno ascolti, perché il ministro Azzolina è tornato a dire che si torna a scuola il 14 settembre, non ho motivo per dubitarne. Il decreto rilancio ha già previsto 600 milioni di euro e ho chiesto, ha detto lei, un altro 1.300 milioni di scostamento. Così la scuola a settembre potrà disporre di 2.900 milioni di investimento, a cui si aggiungono 236 milioni di euro di libri scolastici gratuiti. Però il ministro Azzolina ci deve anche dire, queste cifre già le conoscevamo, va benissimo, le ha ottenute nell'ultimo decreto. Però però poi vogliamo capire la situazione del distanziamento. Allora, oggi c'è un allarme lanciato dai produttori di Federlegno Arredo, dei banchi monoposto e sedute. Si chiama Assufficio di Federlegno Arredo e Assodidattica. Che cosa dicono? Che leggendo il bando di gara indetto dal commissario Arcuri per l'acquisto di banchi monoposto e sedute destinate alla scuola italiana, viene da chiedersi se prima di stenderlo qualcuno si sia posto il problema se sarebbe andato deserto. Purtroppo sembra di no, nonostante, come da noi spiegato, gli uffici competenti, i numeri dicano che il bando andrà sicuramente deserto. È una missione impossibile per le aziende del settore, perché quello che chiede il banco in pratica significa che dal 7 al 31 agosto, cioè in 23 giorni compresi tutti i festivi, dovrebbe essere concentrata la produzione di 5 anni. Sentiamo che cosa poi ha spiegato Gianfranco Marinelli, appunto presidente di Assufficio, al microfono della nostra Anna Marino. Avevamo segnalato alcuni giorni fa alla segreteria del commissario Arcuri che richiedere la consegna di 3 milioni di banchi per le scuole, che vuol dire produzione e consegna in tutte le scuole italiane, perché chiaramente la richiesta non è quella di accumularli in un capannone dove poi la protezione civile li distribuisce, ma di portarli sul luogo, è semplicemente una cosa assurda che non ha nessuna possibilità di essere realizzata. E anche ammettendo che le società produttrici di materie prime, quindi parlo di pannelli cucciolari, di strutture metalliche eccetera, possano fornire, lavorando come probabilmente potrà succedere anche nel mese di agosto, è fuori dalla possibilità di poter produrre un quantitativo di quel genere e soprattutto di poterlo installare nelle varie scuole italiane, da Canicattì a Bolzano. È un alert che voi mandate perché il bando di gara dà dei tempi impossibili da realizzare così? La produzione italiana annuale si aggira sui 500.000 pezzi, si richiede in 23 giorni 3 milioni installati. Scommetto che il bando andrà deserto perché noi rappresentiamo delle aziende serie che non possono prendere degli impegni, che non possono mantenere, anche perché nel bando ci sarà sicuramente delle penali da pagare se non mantengono gli impegni. L'industria italiana potrebbe soddisfare la produzione in 150-200 mila banchi entro la fine di settembre e poi occorre il tempo della consegna. Sì, e qui resta un dubbio. Allora, non ce l'ho col commissario Arcuri, ci mancherebbe, è stato nominato commissario in affiancamento al ministro Azzolina, ma se è mesi che decidiamo come riapre la scuola, se è mesi che chiediamo una data, se è mesi che sentiamo dire banchi distanziati e poi plexiglass, no, il plexiglass, non ho mai detto il plexiglass, l'avrò detto io il plexiglass, incriminate il plexiglass, dov'è il plexiglass? Oh, ma adesso scopriamo che ci vogliono, che non abbiamo la struttura per fare questi banchi, cioè per quello che i tempi non sono un dettaglio. Ministra, ci dia per favore, o il commissario straordinario, la roadmap di come intendete aprire, quando arriveranno sti banchi, se verranno fatte delle deroghe, perché così non si può andare avanti. Veramente, guardate, nel momento in cui celebriamo un successo, con buona pace di tutti i rosiconi che mi stanno scrivendo, dell'Italia, anche dell'Italia in Europa. E poi ci sono due Scille e Caridi. Scille è la riapertura delle scuole per questo governo. Cariddi è arrivare a metà ottobre con un piano dettagliato di spesa e credibile. Qualcuno mi dice perché non commenta l'opposizione? L'opposizione ha reagito in maniera molto diversa. Forza Italia ha sostanzialmente apprezzato quello che ha ottenuto il governo italiano. Giorgia Meloni, devo dire, ha fatto un'analisi, speravo di ottenere di più, ma comunque l'Italia esce in piedi e io apprezzo sempre il giudizio anche dall'opposizione quando è critico, durissimo, ma quando è obiettivo. Poi Matteo Salvini non ho capito cosa volesse, lo dico con la massima franchezza, perché è un partito che ha due esponenti economici di punta come Borghi e Bagnai, che hanno fatto una campagna per uscire dall'Europa, dall'euro, a certe condizioni. Non ho capito cosa avrebbe voluto ottenere. Vedo che adesso dice subito si abbassino le tasse. Evidentemente neanche lui ha capito il meccanismo di questo recovery fund, che non è per abbassare tu le tasse così. Devi presentare un piano di investimenti. Non puoi dire il mio piano di investimenti è ridurre la pressione fiscale. Dopodiché, invece, quello che è chiaro è che la quota 100, cavallo di battaglia della Lega nel precedente governo, viene criticata a livello europeo da tutti e io mi chiedo come si faccia in questo periodo a mantenere ancora quota 100 nel 2021. Ma lo dicevo prima di questo accordo, lo dicevo anche durante il governo giallo-verde, che quota 100 non andava bene, era un lusso che non potevamo permetterci, cioè va bene, ma adesso abbiamo altre priorità. Va bene, allora, Scille e Caridi sono per l'Azzolina e Arcuri la riapertura delle scuole e per il governo il piano dettagliato. Poi però la critica deve avere un minimo di costruttività, se no, voglio dire, è un no a tutto, e allora un no a tutto sostanzialmente non vale niente. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Sette e 40 minuti, dunque su quota 100 mi scrive un ascoltatore: vallo a dire a chi lavora in fonderia o sulle impalcature a 30 metri che non va bene quota 100, non a quelli come te che stanno comodamente in poltrona, tutti bravi a fare if con qualcosa degli altri. Allora, due cose per sua informazione: al di là di quota 100 esistono già i trattamenti per i lavori usuranti, che lei sta citando, di cui io ho massimo rispetto, quindi legga bene la norma. Seconda cosa, quota 100 penalizza e non poco chi la adotta. Quindi, contrariamente a quanto lei pensa, se uno ha compiuto un lavoro usurante ha una corsia preferenziale, ma quota 100 avvantaggia solo chi ha già una sua ricchezza personale, perché se uno arriva con difficoltà a fine del mese non va a prendersi quota 100 con la penalizzazione che ha. Quindi quota 100, contrariamente al discorso che lei fa, diciamo simil proletario, è esattamente per quelli che fanno un discorso come che fa lei con la brioche, cioè per chi ha già dei soldi e può permettersi una decurtazione pensionistica anche significativa. Quindi guardi, vede che poi bisogna stare attenti. Allora, diffuso oggi il rapporto regionale per le piccole e medie imprese 2020, realizzato da Confindustria e CERVED in collaborazione con SRM Studi e Ricerche per il Mezzogiorno. Si è andati a misurare lo stato di salute di 156.000 società italiane che hanno tra 10 e 249 dipendenti. E tra l'altro hanno fatto anche l'analisi sull'impatto del Covid 2019 sui sistemi territoriali e regionali delle piccole e medie imprese. Ringrazio per essere con noi Vito Grassi, che è vicepresidente Confindustria e presidente del Consiglio delle rappresentanze regionali per le politiche di coesione e territoriale. Buonasera, Grassi. Grazie a voi, buonasera a tutti. Ho capito bene o purtroppo piove sul bagnato, e cioè l'impatto del Covid non sarà uguale per tutti e rischia di essere molto pesante sulle piccole e medie imprese, ma in generale di aumentare il divario nord-sud? Ma diciamo, il rischio è questo, l'impatto Covid. Non è che ci si aspettavano ovviamente dati confortanti. I dati sono drammatici, un bollettino di guerra. Si immagina che il 30% delle aziende a ottobre possa non riaprire, se non chiudere. E in questo quadro generale, al divario, al gap già esistente tra i territori del centro-sud e del centro-nord, sembrerebbe anche un impatto immediato più rilevante per le aziende del centro-nord, ma poi nel medio periodo sarebbe determinante per l'arretramento ulteriore di tutte le aziende al sud. Quindi sì, potrebbe essere un grande pericolo di aumento del divario e di aumento della competitività poi di tutto il territorio nazionale. Lei diceva, insomma, ci aspettavamo comunque dei dati molto pesanti. Sì. Il calo del fatturato nel 2020 in quanto viene calcolato nelle piccole e medie imprese? Ma ci stanno tutti i dati, sia di calcolo di fatturato, degli indici di capacità finanziaria, di rapporti patrimonio su indebitamento, che sono tutti in calo, vuol dire un rapporto molto ben articolato. Ma la cosa fondamentale è che tutto avviene in un quadro generale dove si stima una diminuzione del PIL di oltre 12 punti. Mm-hmm. Quindi un contesto che per recuperarlo abbiamo immaginato di dover aspettare il 2026-2027, questo è il quadro. Sì, perché voi stimate per le piccole e medie imprese italiane una contrazione del fatturato di quasi il 13% quest'anno, un rimbalzo dell'11-12%, che però, attenzione, per motivi anche di percentuale non è sufficiente. Non succede niente. Scusi? Sempre che non succede niente. No, adesso, per favore, lei essendo anche partenopeo, scaramantico, lo deve essere per definizione. Quindi 227 miliardi di fatturato in meno nel biennio 2020-2021. Calo dei ricavi a meno 18%. Le chiedo una cosa però, perché voi fate bene a dare la fotografia sixt antibus rebus. Potrebbe cambiare qualcosa in meglio se, visto che poi ne parleremo, se poi vi fosse una forte iniezione di investimenti pubblici e fatti partire anche in tempi accettabili? Sì, noi pensiamo che questa è la soluzione. Voglio dire, abbiamo visto i provvedimenti del governo prima di poi il rilancio, si sono inizialmente soffermati sulle misure di sostegno ai redditi più bassi, alle famiglie in difficoltà, alle aziende più piccole, ai lavoratori, e benissimo, anche le prime azioni di rilancio sono state impostate sulla domanda privata, quindi argomenti di bilancio, di patrimonializzazione, di incentivi su costruzioni private, eco bonus, si aspettava un po' l'esito del recovery. E secondo me, a valle di quest'esito, potremmo avere tutti fiducia che con questi fondi si metterà mano veramente a un piano infrastrutturale sì, che possa intervenire seriamente sul rilancio poi di tutta l'economia. Eh sì, perché quello poi... No, ma lei fa bene, grazie, a ricordare una cosa, che al di là dell'impatto immediato, diretto, speriamo che vi sia la capacità, io incrocio le dita, di fare un piano serio di spese di questi soldi... Al di là dell'impatto diretto sul PIL, perché un lavoro pubblico, una ristrutturazione di una scuola, una messa in sicurezza di un ospedale, ha un impatto diretto sul PIL, poi si crea anche un impatto, o potrebbe crearsi un circolo virtuoso, perché se tu vedi che le cose stanno ripartendo, tendi anche a sbloccare qualche investimento privato. Ho capito bene il suo ragionamento? Beh, questo assolutamente sì, e la fiducia è la prima cosa di tutte le investimenti, no? Quindi si investe dove si ha fiducia. Se si vede un quadro generale in ripartenza, sicuramente fa da traino a chi è ancora indeciso. Anche perché ricordiamo che c'è una parte del paese, come piccole e medie imprese, partite IVA, mondo del commercio, che è in estrema difficoltà, in alcuni casi in ginocchio, però c'è stata un'altra parte del paese, un po' perché non tutti hanno chiuso, il 48% delle imprese erano aperte durante il lockdown, un po' perché lavoro i dipendenti del settore pubblico, ma anche in parte del settore privato, non hanno subito le stesse conseguenze, che ha aumentato i risparmi, più 8% nei depositi, quindi per liberare risorse devi avere una prospettiva di fiducia. Lo dico nel ringraziare appunto il presidente Vito Grassi, che è appunto la delega alle politiche di coesione territoriale per Confindustria, lo dico perché nel frattempo, in queste settimane, Asso Lombarda, quindi la rappresentanza confindustriale di Milano, ha prodotto un insieme di podcast che vanno a raccontare proprio la storia delle piccole e medie imprese italiane. Perché l'esempio può essere importante? Perché si scopre che nel 1946 la ricostruzione del paese non è che sia avvenuta in una situazione migliore di questa, anzi, e che però l'elemento forte, simbiotico, è stato rappresentato dal vedere un governo, dei governi, che avevano un piano, una progettazione, e alla luce di questo piano, di questa progettazione, di questo orizzonte, venivano coinvolte anche le piccole e medie imprese del paese, che a questo punto vedevano una sorta di direzione. Il podcast si chiama Piccola Industria Grande Storia e voglio dire, io lo invito chi ha così passione per la storia culturale di questo paese e la storia di imprese di questo paese, andarlo a scaricare. 9 puntate dal dopoguerra ad oggi, con audio originali, interviste di chi quegli anni li ha vissuti. Oggi tra l'altro viene caricata la 5ª puntata, il 68, che è lo spartiacque tra il prima e il dopo. Alessandro Enginoli, presidente della piccola industria di Confindustria, buonasera. Ciao Sebastiano, buonasera a tutti. Allora, Enginoli, senta, da questo punto di vista è chiaro che c'è un interesse molto forte per chi ha questa passione, la storia dell'economia a me personalmente piace, però c'è dell'altro e lo citava prima anche il vicepresidente di Confindustria. Perché? Perché c'è una lezione, ora, mutatis mutandis, la storia non si ripete mai, per carità, se non sotto forma di farsa, diceva Marx, però c'è qualcosa che, come ricordava prima Grassi, le piccole e medie imprese, a fronte dei numeri che oggi hanno diffuso, da questo punto di vista avranno un aiuto se si capirà bene qual è il piano di interventi del governo, utilizzando anche e soprattutto il Recovery Fund, che emerge da questi podcast. Mi riferisco soprattutto alla prima parte, dal 46 in poi. Sì, è esattamente così. Ci sono, giustamente, la storia non si ripete mai, però ci sono dei corsi e ricorsi che comunque ti aiutano a capire la direzione da prendere. La storia dei 70 anni della storia italiana visti attraverso la piccola e media industria ci insegnano questo. Cioè, nei momenti difficili, quando c'è stato un piano di politica industriale nazionale di medio-lungo periodo, la piccola industria ha fatto la sua parte per la ricostruzione, per la ripartenza e per tutto il resto. Insomma, è una grande lezione quella. E come diceva lei, sono 9 puntate, partono dal secondo dopoguerra, arrivano a fino ai giorni nostri. Oggi è uscita la 5ª, 68-70, invito tutti ad ascoltarli, sono estremamente interessanti, sono molto interessanti soprattutto dal mio punto di vista per i giovani. Ecco, Enginoli, su questo ancora una domanda, perché io citavo il 46 perché chiaramente è stato l'anno della ricostruzione, 46, sì. 47, 48, il piano Marshall, sì. Ripeto, non voglio fare, non amo forzare i parallelismi, per carità, però la situazione era anche più difficile, sicuramente più difficile di adesso, c'erano state le bombe, avere un paese da ricostruire veramente e non solo con un profondo calo del PIL. Ma che cosa ha imparato lei, insomma, e anche avete visto come riscontro Che cosa ha permesso una simbiosi felice tra pubblico, che è un argomento anche molto attualità, tra il ruolo dello Stato, del pubblico e il ruolo del privato? Ma in realtà quello che ho imparato io è che lo stesso coraggio, la stessa passione, lo stesso orgoglio di fare l'imprenditore che ci deve essere adesso c'era allora. Allora c'è stata una difesa estrema dei macchinari, proprio dei macchinari industriali, perché c'era una distruzione, c'era il tentativo di portarli via. Hanno difeso i macchinari proprio per difendere l'industria, perché dall'industria doveva ripartire la ricostruzione del paese, e così è stato. E così è stato, inseriti poi in un piano di politica industriale nazionale, quello è stata la ripartenza, e quello è un po' quello che ci auguriamo tutti che risucceda oggi. Citavate prima ovviamente il Recovery Fund perché è l'argomento del giorno. Ecco, avere un piano importante, chiaro su quello che succederà, sicuramente sarà di grandissimo aiuto per tutta l'impresa, per tutta la piccola impresa, che è la spina dorsale del paese. Il 99% delle industrie, ricordiamoci, sono piccole in questo paese. Sì, e che dovrà essere coinvolta anche nel piano appunto di rilancio del paese, e lì poi lo affronteremo con calma. Attenzione, perché la piccola ha l'obbligo, glielo dico a Ginoli, di stare il più possibile in filiera, cioè non importa la dimensione della singola impresa, ma che sia in una filiera produttiva e del valore. Dall'altro lato, quando faremo le gare, ricordiamoci anche che, diciamo, le dimensioni per far partecipare le imprese italiane sono tali per cui le gare non possono essere gare monstre, se no le diamo solo ai colossi, che era un tema molto dibattuto per esempio nelle gare della pubblica amministrazione, cioè le centrali d'appalto devono essere meno ma non pochissime, se no fanno gare a cui partecipano solo 4-5 imprese in giro per l'Europa e di grandissime dimensioni. Grazie anche perché, appunto, l'invito a scaricare, grazie anche a Alessandro Ginoli, i podcast sulla storia delle piccole e medie imprese, del piccolo industria grande, grande storia, questo è il ciclo di podcast. Adesso andiamo sulla borsa e poi, prima di arrivare alla pagina dopo il GR24, sul Recovery Fund. Meno 0,60% Milano, meno 1,32% Parigi, meno 0,50% Francoforte, meno 1% Londra e più 0,26% Dow Jones. Dunque, sì, chiaro che c'è stato qualche realizzo dopo la crescita di ieri dovuta all'accordo raggiunto a livello europeo. Buzzi 11 in più 3,33, A2A più 2,70, Exor più 1,60 come Fineco, l'1% lo guadagna Mediobanca e anche Era, lo 0,90 Prismian. Poi Pirelli meno 2,90, Moncler meno 2,60, il 2,5 lo perde Eni, il 2,20 Tenaris, l'1,80 Diasorin, l'1,60 Enel, l'1,40 Campari, ma anche Recordati e Atlantia. Euro su dollaro a quota 1,1586. Allora, molti messaggi sul recovery, qualcuno ancora su quota 100. Non ho mai detto che stare in catena di montaggio non sia difficile. Poi mi chiedo sempre se qualcuno, chi me lo scrive lavora veramente in catena di montaggio. Per quello che riguarda quota 100, vedo che qualcuno dice: ma io vado con le penalità anche perché sono senza occupazione. Ma guardate, l'abbiamo detto molte volte, quota 100 io non ho detto che sia sbagliata, dico solo che è un lusso per in alcuni casi, e non mi sembra che gli strumenti di welfare manchino in questo momento. Poi, per carità, non tocchiamo, guarda, tanto il problema di quota 100 politicamente è molto poco, perché quota 100 quando è stata lanciata era previsto che dopo 3 anni si andasse a fare una verifica, quindi teoricamente manca solo il 2021, però insomma non è che posso fare la puntata su quota 100. Devo rispondere sulle penalizzazioni, sì, certo. Però intanto andiamo con le dichiarazioni politiche prima del GR24, se ho ancora un minuto e mezzo, sì, ce l'ho, secco secco. Allora sentiamo subito il Premier Conte in aula al Senato. Con l'accordo raggiunto lunedì sera, l'Unione Europea ha mutato la sua prospettiva. Si è trattato di un vertice straordinario, anche in termini di complessità, in linea con l'elevata posta in gioco. L'intesa raggiunta rappresenta senza dubbio un passaggio fondamentale che ci spinge ad affermare senza enfasi che l'Europa è stata all'altezza della sua storia, della sua missione e del suo destino. L'Unione Europea sta affrontando una crisi sanitaria, economica, sociale che si è manifestata fin dal suo più tragico esordio, simmetrica e sistemica. Ha coinvolto tutti i paesi, ha profondamente scosso la vita dei cittadini europei, ha inciso in misura significativa sulla società, sulle economie, costringendo a riconsiderare in modo repentino prospettive, modelli di sviluppo. Di fronte a uno shock di tali proporzioni nel corso di questi drammatici mesi, l'Unione Europea ha saputo rispondere con coraggio, con visione, fino ad assumere ieri la decisione di approvare per la prima volta, un ambizioso programma di rilancio, finanziandolo tramite l'emissione di titoli di debito autenticamente europei. In questo modo si è realizzato ieri un radicale mutamento di prospettiva. Vabbè, questo diciamo la parte di valutazione complessiva, poi dopo GR24 ascolteremo un altro passaggio. Conte oggi ha detto la linea rossa per me era il voto a maggioranza, si riferisce al voto a maggioranza qualificata che il Consiglio Europeo deve dare sui piani da approvare, perché è una vittoria, perché l'Olanda voleva invece la maggioranza assoluta, ma soprattutto la maggioranza qualificata vuol dire che bastano 13 stati su 27 che devono però rappresentare almeno il 35% della popolazione europea, quindi diventa anche più difficile fare solo 13 stati frugali, perché non ci arrivi facilmente. Ne parliamo dopo il GR24 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Adesso parliamo del Recovery Fund, delle dichiarazioni anche di Conte oggi. Devo dare una risposta ad alcuni ascoltatori che si sono inviperiti perché ho detto che quota 100, avendo delle penali, o meglio delle perdite per ogni anno di utilizzo, di anticipo della pensione, dico guardate che la può reggere più tranquillamente chi ha dei risparmi da parte che non chi ha difficoltà a arrivare a fine mese. Qualche ascoltatore mi sta contestando in maniera violenta perché dice che ho diffuso false informazioni. Allora guarda, vado a vedere con massima tranquillità tutti i calcoli, per cui in maniera diciamo media c'è una perdita di circa il 3,5% per ogni anno di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia o anticipata. Nello specifico, rispetto alla pensione di vecchiaia, l'anticipo pensionistico a 62 anni è di 5 anni per uomini e donne. La perdita pensionistica lorda va da un minimo del 18% per chi ha 42 anni di contribuzione a un massimo del 25% per chi ha solo 38 anni di contribuzione. La perdita pensionistica netto dell'IRPEF nazionale varia tra un minimo del 15,8% a un massimo del 22,4%. Poi si distingue tra uomini e donne, le perdite nette per le donne variano da un minimo del 3% a un massimo del 18%. Per gli uomini da un minimo del 3,5% a un massimo del 20%. Tutto qua, non ho detto nulla di strano, andate a rivedere con il funzionamento di quota 100, c'è una penalizzazione per ogni anno di anticipo della pensione. Comunque, torniamo al recovery, il meccanismo l'abbiamo spiegato di nuovo anche in apertura. Allora, ribadisco, 209 miliardi, in tutto, il 28% del totale degli aiuti e il 12% del reddito nazionale di quest'anno. La quota numericamente più alta è quella che va all'Italia, la quota in proporzione ai residenti invece più alta va alla Grecia, e poi ci sono paesi che invece versano e non ricevono. Allora, nello specifico, ogni residente italiano riceve netti 500 euro, non è che li ricevo diciamo dividendo per i residenti, mentre in Olanda ogni residente va a versare netti 930 euro, ogni tedesco verserà 840 euro, e ogni spagnolo riceve più di 900 euro, ogni greco riceverà 1600 euro, ogni francese ne versa sempre netti 400. E facevo notare che la Francia ha accettato questo recovery nonostante abbia avuto una mortalità, una diffusione del virus pesantissima, quasi simile a quella italiana, e sia con un crollo del PIL vicinissimo per i decimali a quello italiano. Cosa ottengono i cosiddetti frugali? Ottengono un incremento degli sconti di quanto devono contribuire al bilancio europeo. La Danimarca ha avuto 100 milioni in più rispetto alla proposta di sabato, cioè 322, l'Olanda ne ha avuti di sconto 200 milioni in più a 1 miliardo e 900 milioni, l'Austria ha avuto anche lei 200 milioni in più a 565 milioni, la Svezia ha avuto 1 miliardo 200 milioni in più. Invariati invece i 3 miliardi e 670 milioni che metterà la Germania, e anche qui bisogna riconoscere che la Germania non ha ottenuto nulla, nel senso che almeno i frugali hanno ottenuto uno sconto, un aumento dello sconto su quello che devono versare, cioè ha ottenuto che non crolli l'Unione Europea, se vogliamo dirla così. E i fondi vanno impegnati entro dicembre 2023, bisogna presentare un piano dettagliato a ottobre di quest'anno. Si possono anche usare retroattivamente per i progetti finanziati dal febbraio 2020, qui c'è l'anticipo del 10% dell'intero programma. Gli snodi principali sono che si possono impegnare nei prossimi due anni, che si devono impegnare nei prossimi due anni il 70% dei fondi per sussidi, quindi a fondo perduto, 28 miliardi e mezzo all'anno per l'Italia, poi si può appunto anticipare il 10%. Quanto riceviamo al netto di tutto? Riceviamo come finanziamenti, quindi prestiti da restituire, 127 miliardi. E vanno restituiti dal 2027 in poi. Come sussidi, quindi a fondo perduto, 81,4 miliardi. Siccome però nel frattempo verseremo nei prossimi 7 anni tra i 45 e i 55 miliardi all'Europa, al netto di quello che versiamo, i sussidi, cioè a fondo perduto, avremmo tra i 36 e i 26 miliardi di euro. Conte però vanta un successo, rivendicano che vabbè, un successo soprattutto su chi deve approvare i piani. L'Olanda voleva che fossero i 27 paesi del Consiglio europeo a unanimità, non si è arrivati a questo, aggiungo io, per fortuna. Sarà la Commissione nei primi due anni a dare un giudizio, poi verrà deciso dal Consiglio a maggioranza qualificata, quindi basta che siano 13 su 27 paesi e devono rappresentare almeno il 35% della popolazione europea. E Conte ha detto che la nostra linea rossa era il voto a maggioranza qualificata e non all'unanimità. Un altro risultato politicamente rilevante dell'intensa azione politica e diplomatica condotta prima e durante il Consiglio europeo insieme ad altri Stati membri e Presidenti della Commissione europea e del Consiglio europeo è che il meccanismo di governance di Next Generation EU preserva le competenze della Commissione europea sull'attuazione dei piani nazionali di ripresa e di resilienza. Cioè i piani saranno approvati dal Consiglio dell'Unione europea a maggioranza qualificata, come peraltro già avviene ordinariamente per i programmi nazionali di riforma del semestre europeo, mentre i singoli esborsi verranno decisi dalla Commissione, sentito il Consiglio. Anche il freno di emergenza, eventualmente attivabile presso il Consiglio europeo, avrà una durata massima di 3 mesi e non potrà prevedere un diritto di veto. Sono stati dunque evitati i passaggi all'unanimità che avrebbero innescato derive pericolose sul piano sia giuridico, finendo per ledere le competenze della Commissione in materia di bilancio europeo, sia politico, perché avrebbero imprigionato lo strumento chiave della ripresa economica europea in veti incrociati tra Stati membri. Su questo punto l'Italia ha posto da subito, ha definito la sua linea rossa. Adriana Ceretelli, la mitica, buonasera. Buona, ormai il barometro non c'è più perché è, no, è andata. No, è andata... l'avevamo presa tutta. Bene, sì, mi sembra di capire insomma che anche tu ritieni, sì, che l'accordo, pur frutto, come non poteva essere altrimenti, di una mediazione, sia un accordo positivo. Ti chiedo, sì, che cosa potrebbe andare storto, perché insomma, è mio dovere anche farlo, la risposta dopo il traffico 349-238-6666 per sms e whatsapp. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta Focus Economia. Oh, money, a meno i soldi promessi ci sono. Adriana Ceretelli, che cosa potrebbe andare storto? Ma secondo me storto potrebbe andare solo il nostro atteggiamento verso questi soldi, nel senso che questi soldi sono a fondo perduto, ma come è noto sono legati ad una serie di condizioni. Le condizioni sono quelle di presentare dei piani nazionali di riforma seri, diciamo compatibili con le indicazioni che vengono dal cosiddetto semestre europeo, quindi quel tipo di riforme che, tra le altre cose, diciamo, a parte i problemi individuali dell'Italia, per esempio appunto la riforma della pubblica amministrazione, della giustizia, uno sguardo al fisco, insomma ci sono diverse debolezze che da anni l'Europa indica come dei rimedi da prendere diciamo con urgenza per far ripartire l'economia. A parte questo, ci sarà anche il fatto che ci vorrà più digitalizzazione e più economia verde. Allora, il piano nazionale verrà presentato, ma il fatto è che per avere i soldi non solo sarà sufficiente presentarlo, ma bisognerà farlo con un calendario da rispettare nell'avanzare, nel progredire delle riforme. I soldi arriveranno per tranche, previa verifica di ogni step che sarà previsto nel calendario. Ora, è chiaro che dipende da noi, se noi saremo, diciamo, seri e conseguenti con gli impegni che saranno inclusi nel nostro programma, nulla può succedere che ci privi di queste risorse o che ci riservi sorprese. Allora, scusami. Per concludere, allora, nel caso in cui invece il piano non fosse convincente o addirittura per gli esborsi appunto si potessero cominciare ad avanzare dubbi circa l'effettiva realizzazione, in quel caso non solo potranno essere sospesi gli esborsi, ma il famoso freno di emergenza voluto dall'Olanda potrebbe entrare in causa, il che non ci farebbe naturalmente perdere i soldi, ma ci farebbe congelare l'erogazione dei soldi. Quindi insomma, sono questi un po' i guai. Ecco, una cosa vorrei capire, Adriana, mentre ringrazio anche per averci aggiunto quell'elemento, Gianni Trovati, che ci racconterà come questo impatterà sulla manovra di bilancio, perché è una manovra, bisogna farla anche quest'anno. Buonasera anche a te, Gianni. Buonasera a voi. Adriana, vorrei capire un'ultima cosa. Tu dicevi, l'Europa vuole riforme e piani nazionali di riforma, ma non ho capito, per esempio, il 30% delle spese green. Non ho capito una cosa. Questi piani di riforma, perché tutto buono e giusto, ma noi sappiamo che per sviluppare i suoi effetti, la riforma della pubblica amministrazione, la digitalizzazione, ci vogliono degli anni, poi li ha gli effetti. Ma adesso abbiamo bisogno di far ripartire il PIL con una mossa, diciamo, da cavallo. Ora, se il governo porta un piano forte di infrastrutture, questo rientra nei soldi? Anche questo può rientrare, ma diciamo che la cosa più importante appunto sono le riforme strutturali, perché in definitiva questo Recovery Fund vuole al tempo non solo rilanciare l'economia, ma come dire guarire le strutture deboli delle economie non ancora convergenti verso l'alto. E quindi, ma tra questi problemi strutturali c'è sicuramente anche la carenza di infrastrutture e gli investimenti. che sono sicuramente una delle chiavi del rilancio. Quindi possono essere usati anche per le spese sanitarie dirette e indirette, perché c'è chi dice così non usiamo il MES. A me sembra che il recovery abbia più condizionalità del MES, quindi non capisco veramente questa polemica. Però diciamo, uno potrebbe fare rientrare anche le spese sanitarie dirette e indirette per il Covid? Io crederei di no, perché se hanno creato un fondo apposta, io me lo dico con senso, se hanno creato un fondo apposta per questo tipo di spese, non credo che si possa sfruttare il recovery per questo stesso obiettivo, no? Certo. Penso che ci siano diversi strumenti per raggiungere più obiettivi che sono necessari al rilancio generale di ciascun paese e dell'Europa nel suo insieme. Quindi per la sanità penso che ci sia quella linea, come c'è la linea SURE, sure per la cassa integrazione, la cassa integrazione, come c'è la BEI per gli investimenti delle piccole e medie imprese. Quindi insomma a ciascuno sono suo. Sono le quattro gambe del tavolo europeo che finalmente si è completato come gambe. Nel ringraziare Adriana Ceretelli, chiedo a Gianni Trovati, però qualcuno mi dice sì, ma i soldi non arriveranno fino al secondo trimestre dell'anno prossimo. Oddio, c'è la possibilità, se ho ben capito Gianni, di anticipare il 10% del totale per le spese effettuate da febbraio del 2020? Allora, c'è la possibilità, buonasera a tutti, di anticipare una quota di spesa per la copertura dei programmi già avviati da febbraio 2020. In verità è una possibilità che sarà verosimilmente usata in modo marginale, perché quello ti servirebbe sostanzialmente per finanziare con sussidi comunitari una quota di invece spesa che hai fatto a deficit quest'anno, quindi ti migliorerebbe di qualche decimale il deficit consuntivo di quest'anno, a patto appunto di finanziare spese che siano compatibili con gli obiettivi che venivano indicati prima. In verità l'obiettivo principale di tutto questo meccanismo su cui si sono accordati a Bruxelles è ovviamente quello di coprire e alimentare nuovi programmi e nuove spese per fare ripresa, e non quella di abbellire i conti di un anno che comunque sono... Altra domanda che arriva, perché ho visto Salvini dire beh, adesso vengono utilizzati subito per ridurre le tasse. Allora, un conto è la riforma fiscale, se ho ben capito il governo inizierà a mettere nel piano che presenterà il fatto che c'è stata una riduzione del cuneo fiscale nell'ultima manovra, che sulla lotta all'evasione comunque si è proceduto con la fatturazione elettronica, cioè come dire l'Italia si stava già muovendo in questa direzione. Ma è possibile utilizzare questi soldi per un piano di riduzione fiscale? E sei d'accordo, perché Adriana dava un'opinione a mio avviso di buon senso, che sarà più difficile usare invece questi soldi per in maniera diretta o indiretta le spese sanitarie dovute al Covid? Allora, sul primo punto, è pensabile finanziare con i fondi europei il taglio delle tasse? La risposta è no, perché le tasse hanno un problema, che purtroppo si pagano, si dovrebbero pagare tutti gli anni, mentre i fondi europei, che sono consistenti, sono però un una tantum, quindi non puoi neanche volendo piegare l'interpretazione delle regole del recovery fund, non puoi farti dare i soldi dagli altri per ridurre le tasse. Ma te lo dico perché oggi Matteo Salvini ha detto usare questi soldi per tagliare le tasse, ma fatelo sul serio, tu gli stai dicendo che non si può. Ma no, ma non è proprio possibile, ma per ragioni ovvie, insomma. Risultava anche a me, evidentemente non lo consigliano bene i consulenti economici, non si può. No, perché è già la seconda volta che sento dire usare questi soldi per tagliare tasse. Attenzione, Ma l'ha detto anche Di Maio, quindi l'aveva detto dire, infatti questo... stavo citando Di Maio, che quando si giusto perché vabbè, sto zitto, ma attenzione, prima di parlare bisogna sapere le cose, non si possono utilizzare perché sono investimenti una tantum, cioè invece tu li vuoi strutturali. Prego Gianni, ti ho interrotto. E quindi appunto c'è questo problema qui, la riforma fiscale si può fare naturalmente trovando le risorse strutturali all'interno del bilancio nostro. Il Ministro dell'Economia, il Ministero dell'Economia stanno lavorando al solito obiettivo di ridurre le detrazioni fiscali per trovare i soldi, per coprire un taglio delle aliquote. L'obiettivo è molto meritorio ed è altrettanto complicato sul piano politico, perché qualunque detrazione, deduzione sconto fiscale tutt'olga, lo abbiamo detto molte volte anche in questa trasmissione, troverai un'opposizione da parte dei diretti interessati, certo, che sono più interessati al loro sconto fiscale che all'aliquota in generale, questo è ovvio. Se la politica avrà la forza di superare queste obiezioni, lo farà, se no no. Ultima domanda, guardate, non abbiamo detto... qualcuno dice che io sto rosicando, non ho capito cosa dovrei rosicare, io tifo Italia da sempre, abbiamo non vinto ma abbiamo pareggiato, secondo me ben così. No, non abbiamo detto che non si possono ridurre le tasse, non lo puoi fare con i soldi europei, lo puoi fare con i soldi tuoi, cioè come faresti in una manovra di bilancio normale, diciamo. Ridurre le tasse, per carità della no, madre, no, ho detto solo che non si possono usare né i soldi del recovery, soldi né i soldi del MES, né dello SURE, perché hanno altre finalità, puoi farlo con la manovra di bilancio tua. A questo proposito, questa sera c'è un CDM sullo scostamento di bilancio, ho visto Gualtieri che dice cercheremo poi di rimodulare ulteriormente i pagamenti previsti per settembre, i pagamenti fiscali. Gianni? Sì, sostanzialmente il tema è ora tutti i pagamenti sospesi si dovrebbero pagare entro fine anno, questo determina un carico sulle imprese in crisi molto forte, quindi verrà una quota di questi pagamenti spalmata nei prossimi anni per alleggerire le rate dei versamenti fiscali dovuti da queste imprese. Per far questo ci vuole un po' di indebitamento, perché appunto i soldi quest'anno non entrano e un po' del deficit sarà usato per questo tipo. E da lì lo scostamento fiscale. Grazie anche a Gianni Trovati, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Berisoni le auguro di una buona serata.